Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di un tema, diciamo così, molto accattivante: il futuro del business mondiale, un tema quasi temerario da affrontare, ma lo facciamo sulla base di un libro che viene dall'America, Exponential Organizations, un titolo in inglese, ma il libro è in italiano, edito da Marsilio. L'autore è Salim Ismail, è fondatore e direttore della Singularity University, un'università molto importante sul fronte dell'innovazione, ed è stato vicepresidente di Yahoo, quindi una lunga esperienza nel settore dell'innovazione. Ne parliamo di questo libro con Fabio Troiani. Buonasera Troiani. Buonasera. Fabio Troiani ha portato in Italia questo libro, l'ha curato, ha scritto la presentazione, e Fabio Troiani è amministratore delegato di Business Integration Partner. Parleremo anche di questo, ma innanzitutto a Troiani chiediamo perché è importante questo libro. Ma è un libro che con i modi degli scrittori di management americani presenta in maniera molto semplice la formula per adottare in Italia i criteri di gestione di successo delle grandi start-up che sono diventate poi aziende multimilionarie americane come Facebook, come Apple. Ecco, ci sono anche in Italia esempi di start-up che, diciamo, forse non hanno avuto il successo di Facebook e di Google, ma strada ne hanno fatta. Sì, certamente. Yux, ad esempio, è una di queste. Il libro parte da esempi molto concreti, fa vedere come chi ha sottovalutato il potenziale delle tecnologie a sviluppo esponenziale poi ha avuto un finale di storia non positivo. C'è l'esempio in cui, nel momento in cui Instagram con 15 persone in organico veniva quotata per molti milioni di dollari, nello stesso momento in cui Kodak con 120.000 persone veniva messa sostanzialmente in liquidazione. Piuttosto l'esempio di Nokia che comprava una tecnologia basata sul satellite per fare le mappe, nel momento in cui Waze iniziava a crescere con dei sensori che non erano dei costosi satelliti, ma erano gli autisti che segnalavano il traffico attraverso una formula di crowdsourcing molto innovativa. Ecco, nessuna tecnologia definitiva, anche le tecnologie più recenti possono essere rapidamente superate da altre tecnologie. Sì, sì, il concetto infatti si basa sulla legge di Moore, che dice: attenzione, c'è una tale evoluzione esponenziale delle tecnologie per cui se una sequenzazione di un genoma qualche anno fa costava decine di milioni di dollari, in pochi anni può arrivare a centinaia di dollari. Questo cambia chiaramente le dinamiche del business. Se pensiamo che oggi negli iPhone 6 c'è la stessa capacità che c'era nel computer che ha portato gli uomini sulla Luna, ecco, questo dà l'idea di quanto queste tecnologie si evolvano e di come questo possa cambiare il business. Ecco, nella presentazione lei dice una cosa che, diciamo così, è abbastanza accattivante ma quasi provocatoria. Cioè, la formula è semplice: occorre individuare e creare marketplace virtuali combinando web, cloud, big data, ovvero grandi quantità di informazioni destrutturate, e algoritmi. Ma è veramente così semplice? Ma dunque, chiaramente, se non si hanno dei legacy precedenti, se si ha un ambiente un po' così da prato verde, che è quello tipico delle start-up, è più semplice. Per una grande organizzazione, in paesi europei, dalla regolamentazione complessa non è così semplice. Però sicuramente non c'è alternativa. Oggi chiaramente, se non si adotta una veloce capacità di adottare queste nuove tecnologie e metterle dentro al business, si è fuori dal business. Vediamo un po' la parabola discendente che ad esempio hanno avuto i grandi operatori di telecomunicazione rispetto ai grandi cosiddetti over the top, che sono i Google del caso, e perché non hanno compreso esattamente quel modello lì, no? Ecco, e subito dopo lei dice: la chiave di successo è basata sulle potenzialità dei marketplace virtuali. Spieghiamo un attimo cosa sono i marketplace virtuali. Beh, guardi, i marketplace virtuali sono, l'esempio è Airbnb. C'è un esempio, c'è un mercato di eccesso di capacità per far dormire le persone a livello privato, nelle case, nel mondo. Il mercato di approvvigionamento è un mercato di approvvigionamento virtuale mondiale, e il mercato di collocamento è un mercato di vendita mondiale. Si è messa in contatto una semplice eccesso di capacità con una domanda di avere un qualcosa di diverso invece di una squallida stanza di albergo, e questo ha fatto il successo. Questi sono due marketplace della domanda e dell'offerta virtuali che sono stati messi in contatto sulla base di una semplice esigenza, quello di non andare in una stanza d'albergo, ma di stare magari in un qualcosa molto più simile a casa. Ecco, allora due domande a questo punto. È possibile portare queste esperienze anche in altri settori che non sono quelli che, in cui direttamente sono implicate le nuove tecnologie dell'informazione? Cioè chi fabbrica, per esempio, piastrelle può veramente utilizzare queste tecnologie? E la seconda domanda è, in Italia, lei come amministratore delegato di Business Integration Partner, che esperienza ha di innovazione portata a livello di cambiamento all'interno delle imprese? Ma guardi, sicuramente la cosa si applica anche a chi produce piastrelle, perché comunque oggi possono essere raggiunti i mercati, lo stesso catalogo, no? Non è più fisico e digitale, il rapporto con i clienti a distanza può essere non più fisico ma digitale. Banalmente, se vediamo oggi la possibilità di utilizzare con grande facilità le videoconferenze, si possono creare situazioni di vendita virtuali senza che questa sia necessita una presenza fisica. Il catalogo e i siti web e la capacità di interagire con i clienti finali sono sicuramente un veicolo di internazionalizzazione che può, diciamo, di cui anche la piccola impresa locale può, che fa delle cose molto fisiche, certo, può beneficiare. L'opportunità per l'Italia è importantissima. Io certamente, diciamo, reduce dalla mia esperienza in Silicon Valley e alla Singularity University, ho applicato in primis nell'azienda in cui lavoriamo. Ad esempio BIP è un luogo dove abbiamo degli uffici, sono estremamente ridotti, le persone sono prevalentemente o dal cliente, lavorano da casa, c'è una sorta di virtual workplace, che è una qualcosa che chiaramente aiuta moltissimo le persone nella gestione del trade-off vita privata e vita lavorativa, ma non è solamente questo, è nel modo in cui si incentivano le persone, c'è una grande partecipazione ai profitti all'interno dell'azienda e c'è una organizzazione estremamente elastica e molto delegata. Ecco, quindi è un network, una società di consulenza essenzialmente che lavora a fianco delle grandi imprese italiane. Esatto, e noi stiamo aiutando le grandi imprese italiane a importare questi concetti dell'exponential organization, a capire come usare il crowdsourcing, a capire come utilizzare i big data, a capire come utilizzarli, non a produrli e basta, no? Che questa è la grande differenza. E chiaramente ci sono degli spazi enormi. È chiaro che c'è ancora dei vincoli di regolamentazione su tutta una serie di cose, no? Sapete, chiaramente il ricorso al crowdsourcing si scontra un po' con le leggi, diciamo, con lo giuslavorismo, la fiscalità italiana, ma anche il governo, con il governo Renzi, sta in qualche modo lavorando molto a questi temi, portando una discreta innovazione, si veda, non so, ad esempio le leggi sul crowdfunding e i lavori che stanno facendo oggi sul crowdsourcing. Ecco, lei proprio nell'introduzione spiega come ci siano molte difficoltà di portare delle capacità innovative in Italia, di rinnovare le risorse in quanto legate a contratti sindacalmente rigidi e quindi con altri vincoli rappresentati al costo delle strutture e tecnologie poco performanti e così via, anche delle strutture di bilancio. Quindi ci sono elementi di innovazione che vanno portati anche nella regolazione dell'attività economica. Assolutamente, ad esempio le facilitazioni per le start-up potrebbe essere un argomento di sicuro input di sviluppo. Oggi chiaramente, vista la situazione regolamentare, molte delle start-up di successo italiane purtroppo a un certo punto, per avere essere effettivamente di successo, debbono trasferirsi a San Francisco o a Berlino, e questo chiaramente è un gap che dobbiamo rapidamente colmare. Ecco, detto questo, presentate appunto anche le difficoltà, resta il fatto che l'immagine dell'industria italiana è come l'immagine dell'industria innovativa, per esempio l'automazione industriale resta ai primi posti nella classifica delle esportazioni italiane all'estero, quindi ci sono degli elementi appunto problematici, ma c'è anche una base anche di innovazione, di imprenditorialità, di capacità di rinnovare dei modelli che erano stati vincenti in passato, come quelli dei distretti, che appunto hanno un grande bisogno di rinnovamento. Assolutamente, io credo che questa è la grande opportunità per l'Italia. Noi abbiamo un governo delle tecnologie, vediamo i centri di eccellenza ad esempio nella robotica o nell'automazione industriale, abbiamo dei politecnici che sfornano degli ingegneri molto bravi, abbiamo una grande capacità di lavorare sulla tecnologia combinata ad una grande creatività. Se a queste due cose aggiungiamo quelle semplici formule che suggerisce il libro di utilizzo le modalità più digitali, più innovative, sia per gestire le aziende che per esportare i nostri prodotti all'estero, sicuramente diciamo l'economia italiana ne può beneficiare. Ecco, in questa prospettiva, tornando appunto al libro, un'indicazione per essere molto sintetici è che comunque l'innovazione comprende tutto, comprende le attività tradizionali, le attività innovative, e all'interno di questa realtà complessiva dell'economia c'è ancora un grande spazio per crescere, per fare cose nuove, per fare magari in modo nuovo le cose vecchie, ma anche per inventare delle nuove cose. E in fondo le tecnologie in una realtà come quella italiana possono essere facilitanti, perché rimuovono esse stesse degli ostacoli. Assolutamente, lo confermo, e diciamo il substrato di predisposizione, dicevo appunto la creatività e di preparazione, i nostri migliori politecnici che possono dare quello che poi è l'ingrediente fondamentale per questo salto, che è la disponibilità di talenti e di persone valide, che però devono riconvertirsi da una mentalità sostanzialmente industriale a una mentalità sostanzialmente terziaria. Certo. Anche la Fiat, adesso la macchina sta diventando un computer, le fabbriche sono totalmente non umane, e quindi dalla Fiat agli ottici si dovranno avere molti più programmatori ed esperti di matematica e di informatica che ottici veri e propri, perché poi il mestiere dell'ottico verrà fatto da un laser e da un computer sostanzialmente. Certo, prendere nota del cambiamento, tenerne conto, sfruttare il cambiamento, cavalcarlo soprattutto. Grazie assolutamente a Fabio Troiani, amministratore delegato di Business Integration Partner, di essere stato con noi questa sera. Ha curato il libro di Salim Ismail, Exponential Organization, esito da Marsilio, sono 380 pagine per 24 euro, un libro che parla appunto del futuro del business mondiale, del futuro delle aziende, in particolare anche delle aziende italiane. Grazie a chi è stato con noi, l'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.